Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Joaquín, palla bassa per Borja Valero. Ancora lo spagnolo che si libera. Borja Valero! Borja Valero! La Fiorentina è già avanti dopo 4 minuti. Il gol arriva dalla Spagna. Borja Valero. Tocco all'indietro per Borja Valero. Va lo spagnolo, prova a liberarsi. Borja Valero! Borja Valero! Con deviazione, ma il gol è suo. Ed è la doppietta dello spagnolo. 2-2. Roba da non credere ai nostri occhi, al Franchi. È contento per due gol che non ho fatto troppo l'anno scorso e mi fa anche piacere. Poi forse troppo soffrimento al secondo tempo, no? Un 4-2 con un giocatore in più dovevamo gestire un po' meglio la partita, ma comunque siamo contenti per le tre punti. Higuain riesce ad andare via con un grande numero. Attenzione a Higuain, punta alla porta. Higuain con il destro. E il pipito Higuain torna al gol in campionato. Torna dopo un lunghissimo digiuno. Higuain detta il passaggio. Il pallone per lui. Higuain può andare in porta. Higuain non perdona il pipito al 27esimo della ripresa. È doppietta. È 3-1 per il Napoli. Ha dato fastidio in queste settimane anche sentire dubitare del valore di Gonzalo Higuain? No, non mi ha dato fastidio perché si sento la fiducia del mister, della squadra e del tifosi, io sono tranquillo. Dunque, oggi sono molto distratto, no? Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Napoli e Fiorentina, le squadre più spagnole del nostro campionato, rimangono sul treno. Sono molto distratto anche perché mentre sentivo questa bellissima copertina leggevo varie notizie, tra cui Stankovic, nuovo presidente della Federcalcio Serba, cui spetterà il compito di scegliere il nuovo Mihajlovic. Leggevo anche che la Juventus verrà multata di 5.000 euro per quei cori beceri dei ragazzini domenica allo stadio. Leggevo anche che sempre in prospettiva Juventus Vidal ha firmato fino al 2017 dicendo il giorno più importante della mia vita. Poi ero distratto anche perché non so dov'è Pardo, non lo so, giuro. 800 24 00 24, se qualcuno l'ha visto mi chiami, mi avverta. Però in compenso c'è qui con me un nostro grande amico ormai da molto tempo che si è materializzato da Madrid. A Via Monterosa, Filippo Maria Ricci. Ecco. Buenas tardes. Se volete, se qualcuno me lo chiede, ve lo scrivo. Chi è? Guarda. Buongiorno. Mira. Ci conosciamo? Buongiorno, piacere. Lei chi sarebbe? Dai, che non è radiofonico, non si vede. Non si vede. Però allora, si sente. Fai la telecronaca, fai la radiocronaca. Scende sulla fascia destra. Prende la sedia rossa, si mette le cuffie, infila la cuffia. Sì, sta per infilare le cuffie e finalmente. Oh, buongiorno, come va? Camicia a righe e maglioncino firmato. Grande blu. Qualità. Sì, però con le toppe rosse, tipo Vigili del Fuoco. Toppe rosse. Amorevolmente riattaccate. Buongiorno Ricci, buongiorno. Buongiorno. Genta, buongiorno. Amici, tutti convocati. Come andiamo? Tiki Taka? Bene. Come è andato? Bene. Mughini, ti licenzia? Pierluigi, ti licenzio. Andata bene, gli ascolti bene, siamo felici, siamo divertiti. C'era Renzi, la Pellegrini, Barzagli, la Satta incinta. Sì, salutiamo, sì. Melissa, abbiamo fatto il toto nome. Federica ti ha chiesto di me? Sì, mi ha chiesto di te, però mi ha chiesto quando vedo Genta. Io ho detto, guarda, te ne ricordo voi, c'è WhatsApp nel mondo di oggi, no? No, beh, anche abbiamo WhatsApp da profusione, Basta andare via Monterosa. Monterosa. Bueno, de che parliamo, cioè? Guarda chi c'è. Io, Filippo Maria Ricci. È arrivato da Madrid, ci ha portato Cristiano Ronaldo, Ancelotti, ci ha portato Messi da Barcellona. No, possiamo farci raccontare un sacco di storie. Una Liga riaperta, fra l'altro, un Ancelotti finalmente. gente felice, eh? Esatto. Chi teniamo smuccia parità. Va bene, però cerchiamo, diamo ritmo, diamo intensità. No, amici, siete sempre tutti convocati. Fra 27 secondi c'è il traffico, giusto? Va bene, aspetta. Ah, ok. 8, 0, no, però siccome il traffico è un momento di grande ascolto, lo dico. Ho capito, ma no, eccolo, ecco, vedi? Se, perché il sorpasso. Non anticipare i tempi. Io ho come al solito le cuffie che non funzionano e tra poco me ne vado, quindi vi lascio qui da soli. No, non dico, se vuole. 800240024, siete tutti convocati per il Napoli che resta sul treno. Yes. La Fiorentina pure. La Lazio, secondo me Petkovic avrà tempo di pensare al suo nuovo incarico nazionale svizzera prima della fine del campionato. Un lunedì da 13 gol che di solito non succede neanche in tutto il weekend, compreso. Ma lì c'è una spiegazione. Portiere di difesa. Poi te la dico, ti dico tutti al bar, poi mi dici la spiegazione. E vabbè, abbiamo il traffico. Traffico. Prima della spiegazione, vabbè. Certo, vai. Come no. Quindi noi adesso dobbiamo fare delle riflessioni, le faremo, ci mancano due partite di campionato e una partita di coppa. Prima di Natale, no? Visto che è stato detto che la Federazione Svizzera farà annuncio millenario come il bambinello, vedremo che cosa ci porterà. No? Attenzione, faccio la radiocronaca di questo momento. Pardo sta cercando una spina per poter ricaricare il cellulare. Adesso torna al suo posto. Attenzione, cambia posto e cambia cuffia. Attenzione, è stato scuguccia. Grande Celucci, diamo abbraccio, grande. C'è chi mi scrive. Attenzione, Filippo Maria Ricci dalla Spagna qui con noi. Senti Fil, ma tu sei una star dei processi, cioè dei processi, no, è venuto per dei programmi radiofonici e televisivi spagnoli. Sì. Ma la qualità dell'insulto qual è? E la quantità dell'insulto, allora, che arriva? Allora, adesso hanno fatto dei progressi in Spagna, quindi ci sono queste due trasmissioni televisive, una si chiama Punto Pelota e l'altra Tiki Taka. Prima cosa, un aneddoto. Aspetta, un aneddoto: si sono sfidate nella Liga dei giornalisti e si sono menati. Vabbè, mi sembra che no. Questo per dire, per rendere tutto stanno migliorando in questo senso, si stanno avvicinando al modello italiano, quindi urlano molto, strillano e litigano. Però in realtà io personalmente lì non ci vado mai, nessuna delle due. Però cercano. Gli piace molto questo l'urlo televisivo, sta prendendo piede. Sì. E l'insulto radiofonico? No, in radio no, la radio è tutta un'altra cosa. La radio hanno questi programmi molto notturni e molto seguiti. E conta che ci sono tre programmi che partono a mezzanotte, tutti più o meno uguali, e fanno da 1.000.000 a 500.000 ascoltatori ogni notte. E la gente... Io ho sempre, no, perché questo adesso è un momento culturale, quindi potremmo anche chiamare, non lo so, Barisoni, potremmo chiamare Cruciani, perché no, io vorrei capire, ma in Spagna, che fra l'altro dormono. È un paese, ecco, a che ora si comincia allora a lavorare? Io vado a scuola a portare i bambini e incontro almeno 10 genitori, dice, stanotte ti ho sentito, dice, no, devi dormire, perché? No, perché ecco, mi no, vorrei capire, la mattina, tipo le scuole, a che ora si va a scuola? Non aprono a mezzogiorno, no, 8 e mezza, uguale, stamattina ho preso l'aereo, io passo in mezzo ai ministeri, lì ci sono una serie di ministeri davanti, e l'aereo era alle 9, quindi io sono passato lì alle 8 meno 10, era pieno di gente che entrava. Ma allora popolo appennicati, cioè... No, infatti io no, ma questa è la ragione sociale della crisi per me. Cioè loro sono in crisi. Sarò pure però la bolla prima della crisi. Certo, però perché lì ancora era la movida, no? Poi è finita, adesso non ce la fanno più. Vabbè, i quarantenni, i 45 anni non ce la fanno visto, più. Visto devono cambiare siamo, gli orari. Facciamoci 5 anni di movida e poi certo. Vediamo, no? Certo. Se questo è l'effetto, e poi vedremo, fra 5 anni riparliamo. Che ormai non ce la fanno più, non resistono a questi ritmi. No, ma si potrebbe spostare io. Vogliamo parlare del pranzo di lavoro? Il pranzo di lavoro comincia verso le 2:30-3. Che se pranzo ti alzi... di lavoro? Un pranzo di lavoro. Ah, pranzo. Tu a Madrid vai a un pranzo di lavoro e ti invitano 2:30-3. Se ti alzi prima delle 5 sei proprio, cioè, uno scostumato. Certo. Cioè, se non hai mangiato un chilo di carne, alle 10. Anche o anche più tardi. E niente, così. Però appunto ma guarda, basterebbe aprire gli uffici alle 10 di mattina, avreste risolto tutti i problemi. No, però no, non ce la fanno. No, adesso ci sono. Modello che io esporterei. Io sono proprio per. Non a caso, insomma. Andiamo a farci 5-6 anni di movita. Poi quando arriva la bolla, andiamo in un altro posto dove si fa. Esatto. Andiamo a esportare il modello. Tra l'altro, non ci scherzi, ma è stato il modello di tutta una serie di manager che insomma hanno fatto queste robe qui. Danno delle sole e poi ti sposti da un altro. Sì. Poi ha ragione questo che scrive: non riesco a non dirti che fai veramente della radio nazional popolare, nel senso peggiore del termine. Gli amanti del processo di Biscardi e Affini andranno matti per il tuo stile e il taglio che hai dato al programma Mediocrità al potere. Mi sembra con grande onore. Mi sembra una garbata critica. Garbata critica. Ascoltami, ascoltatore, di che cosa vuoi che parliamo? Chiamami 800240024. Raccontami, dimmi la tua, di che cosa dobbiamo parlare? Gli spagnoli lavorano molto più dei tedeschi e degli inglesi, non c'è dubbio, ci dicono, come d'altra parte noi italiani. Questo, allora, ce lo dice Luca. Benissimo. Cosa ha detto Mughini sulla difesa della Lazio? Io credo che il Napoli di stasera dovrebbe erigere un monumento alla difesa della Lazio, perché la difesa della Lazio più babbea di stasera è difficile nella storia del calcio. E tu cosa hai risposto, Pardo? Io ho chiesto a qualcun altro, ho fatto il vigile urbano, non è che posso fare però insomma sicuramente ieri la difesa della Lazio, io credo che la Lazio ieri sera sia giocata in maniera un po', forse un po' troppo champagnona, se mi passi questa espressione. Cioè in questo momento forse uno spirito un filo più da provinciale contro una grande squadra, comunque è vero, veniva da tre sconfitte, ma una grande squadra come il Napoli, forse col senno di poi sarebbe stato. Hai notizie di Klose, però? Auspicabile. Perché ieri sera abbiamo rivisto il principe Higuain, sì, che Filippo Varalici conosce molto bene e che è il capo giocatore del Napoli, non segnava da 72 giorni. E si è visto cosa può cambiare nel Napoli. Hai notizie di Klose? No, no, perché dimentichiamo spesso che la Lazio gioca senza il suo migliore giocatore. Ce le porta il bambinello, no? Le notizie. No, fra l'altro. Il bambinello di Lotito. Senti Benitez, senti Benitez. Mister, complimenti. Come sogna il suo gennaio 2014? Come lo immagina? Noi abbiamo i tre rei, arrivano con qualche regalo, vediamo. Sono i magi? Sì, i rei, no, sarebbe i bello che lo dice all'italiano, cioè in spagnolo sono i reyes, allora per fare l'italiano ha detto i tre rei, che sarebbero i tre re. Fra l'altro sì, una curiosità linguistica, visto che insomma qui abbiamo Ricci che è un poliglotta, Benitez dice continuamente interiezione, come dite voi italiani, alla Ericsson, dice so così, perché well, ti è rimasta questa cosa dell'Inghilterra, ti ricordi Ericsson? You want me to make Sven Goran Ericsson impression? But I can't do that. Siamo onorati di essere una trasmissione di pagliacci, caro ascoltatore. Se vuoi chiamarci, fai il pagliaccio anche tu, tanto penso. Vabbè, tu lo sia. No, io oggi pomeriggio. No, penso, vabbè, tu, che lo sia. Cos'è, ma no, tu lo sia. Ma la critica ci sta, gente. Va bene, ma chiamatemi, no? Dai, abbiate almeno il coraggio di confrontarvi verbalmente. Non fate i soliti, sì, questa conigli, io non condivido adesso questo muro, no, contro muro col pubblico, muro contro muro, sì, ecco. Sì, sono parte della fase Ericsson, allora ci sono gli ascoltatori di Cruciani che adorano farsi prendere a calci in culo e io non posso dire che se uno fa, se mi scrive oggi se c'è un pagliaccio, il signor Ricci qui con noi, il signor Ricci. Allora parliamo di calcio, potrebbe sì, Pandev che dice una cosa che io condivido. No, esultanza era per rispetto dei nostri tifosi, poi io come ho ringraziato sempre a Lazio, sono stato bene 5 anni e mezzo, poi questa esultanza non c'avevo con i tifosi della Lazio, solo soprattutto con i presidenti che siamo lasciati malissimo e niente. Mi sembra giusto, sì, insomma, senza entrare nel merito della vicenda, però, ascoltatore, insomma, chiamami tu senza problemi, non è che ti devo chiamare tu senza problemi, questo numero che finisce col 747, sentitevi voi, io Ricci, mi chiami senza problemi, parliamo, no questa cosa, però adesso invece conigli. No, ti ha detto chiaro, senza problemi. Cioè, coniglio numero bagnato. Coniglio volevo bagnato, dire chiamami, questa cosa. Buono! Questa cosa di Pandev, secondo me, è una cosa invece condivisibile, nel senso che essenzialmente, secondo me, è un buonismo inaccettabile questo del non esultare. Ed è forse sarà anche una forma di rispetto per i tuoi ex tifosi, ma è esattamente come ha fatto capire Pandev, una mancanza di rispetto per i tuoi tifosi. Ma assolutamente. Ma soprattutto per l'essenza, per lo spirito del gioco. Il giocatore si taglierebbe una mano per far gol nel momento nel quale fa gol, ma perché si deve io uno che non esulta lo multerei. Vabbè, adesso sì, però no, però devi esultare, dai. Cioè, devi esultare, secondo me è una comunque onesta, mi sembra una spiegazione onesta, ce l'aveva col presidente, non si sono lasciati male, basta, anzi punto. Volendo essere un po' cattivi, in fondo questa risposta avrà fatto felici anche molti tifosi della Lazio. Sappiamo che Lotito probabilmente non come nel passato, credo che insomma i rapporti siano un po' migliorati, però con una fetta del pubblico bianco celeste esatto ancora continua a non essere molto amato. Oggi veramente abbiamo una popolarità, andiamo da Gennaro sì, da dopo Napoli, dopo aver mandato a diavolo Giuseppe, no, andiamo ma da basta Gennaro, ma che è impazzito, gente, è impazzito oggi polemica, io sono stufo, ma dai, ma ma io cosa vi ho fatto per essere qui a prendere i vostri insulti? Ma voi chi siete? Ma chiamatemi, se avete dei problemi con me mi chiamate, non mi insultate via sms, perché io ne ho piene le scatole alla mia età, sono qui da mille anni. Ma chiamatemi, dai, su, confronto diretto. Gennaro, Gennaro, ti prego, riportaci un po' di serenità. Gennaro, penso che... Senta, sì, un po' di calma. Ma un po' di calma, ma un po' di calma se ne va. Se no, niente calma, Gennaro. Fa il bravo. Sei magnato oggi, gente. Calma, calma. Tutto sotto controllo. Vai. Volevo sottolineare il fatto che ieri i tifosi della Lazio, che a mio parere ha fatto una buona partita, io sono tifoso del Napoli, e il fatto che hanno chiamato questa brutta moda, anche hanno chiamato i tifosi sotto la curva, per me è inaccettabile. Come la stessa cosa. Non conosco bene i fatti, però non mi è piaciuta nemmeno la dedica di Keita, un grandissimo gol ai tifosi di Varsavia. Ai tifosi che sono a Varsavia. Allora, io posso dire un paio di cose su questo. Allora, a Varsavia chiaramente nessuno di noi c'era, sicuramente la sensazione che ho io è che a Varsavia la polizia sia intervenuta con metodi molto spicci e abbia fatto, insomma, di tutta erba un fascio, prendendo tutti. E siccome la personalità, la responsabilità penale è personale fino a prova contraria, cioè se tu c'hai un'ascia in mano e stai cercando di menare qualcuno è un conto, se tu sei in un gruppo e non fai niente non puoi essere processato semplicemente perché fai parte di quel gruppo. Io credo che questo spieghi il motivo del caso diplomatico che c'è in questo momento. Quindi solidarietà agli innocenti, che sicuramente ci saranno stati fra i tifosi della Lazio. Poi chiaramente i fatti processuali dovranno essere spiegati meglio. Invece sul discorso di ieri, insomma, questa è una dialettica che conosciamo, che in alcuni momenti, pensa alle famose maglie del Genoa, ha toccato, diciamo, i suoi vertici, di un rapporto dialettico che sfiora la minaccia fra giocatori e curva. Io posso semplicemente ricordare che nessun giocatore, penso, al mondo scende in campo per perdere una partita. Nessuno, fosse anche soltanto per quieto vivere e per serenità personale, nessuno vuole perdere. Quindi questo lo ricordo a tutti. Poi c'è chi è più forte e chi è meno forte, chi in un certo momento sta meglio e chi sta peggio, chi è più bravo tatticamente e chi è meno bravo. Ma insomma, questa equazione che se perdi è perché non hai fatto il massimo, se perdi devi andare a lavorare, è un'equazione secondo me un po', vedi, un po' esagerata. Ti fa dei segni, no? Sì. Perché ti fa dei segni? È perché adesso c'è la borsa. Bravo, i mercati, 14:30. Filippo Marinarici ce lo teniamo qui. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Tutti convocati all'800240024, soprattutto i polemici. Oggi mi va così. Oh, permettetemi di essere polemico. Una volta tanto, perché devo sempre fare il bravo. C'è Pardo, c'è Filippo Marinarici, ospite guest star. Bravissimo. Siamo doppie segore. Esatto. ma mica peraltro per pigrizia, per sonnolenza. Com'era la tua vita con Mourinho, Ricci? Beh, al Chelsea molto bene. No, al Chelsea, al Real Madrid. A Madrid meno bene. Come direbbe Eriksson, primo tempo bene, secondo tempo meno bene. Esatto, no, è stato proprio così. Ne siamo partiti molto bene, poi dopo però... Quindi hai assistito alla mutazione di Mourinho. Sì, beh, è complice anche l'acquisto da parte della Gazzetta di Santiago Segurola. Alcuni articoli che spieghiamo. Segurola è, diciamo, il guru, il papa, il maestro dei giornalisti argentini, no, spagnoli, spagnoli, scusami, sì. Giornalisti spagnoli che amano il bel calcio. Esatto. Ecco. E no, ha scritto alcune cose, peraltro giuste, peraltro anche ben scritte, anche sulla Gazzetta. E ovviamente Mourinho non aveva molto gradito. Ma poi in generale, insomma, non è che i rapporti sono difficili da mantenere quando le cose non vanno bene. Scrivi tutti i giorni. Questo è un po'. E sì. Mourinho ha un'idea dei rapporti un po' particolare. Concordo con voi, però Ramsey che non esulta a Cardiff ci sta, ci scrive Giacomo. E secondo me ogni regola. Regola ha la sua eccezione. No. Allora, secondo me in assoluto non ci sta. Poi ci può essere un rapporto particolare con una squadra, non è che se c'hai 15 ex squadre ogni volta deve diventare un codice. Ci può essere una situazione particolare Aldo quale... Serena che doveva fare? No, esatto. Non risultava mai. Aldo Serena risultava giustamente sempre. Volte, ma ieri sera ho visto Romulo che segna alla fine. Romulo, giocatore del Verona. Verona. Io manco mi ricordavo che giocava nella Fiorentina. Romulo sì, però. Sì, okay. Cioè, no, si ricordava, ma Romulo c'ha il cuore viola, ma che ne sai? Ma fantastico. No, io mi scuso con Roberta. Mi scuso con Roberta, le mando un bacio via etere, perché lei è un uomo così. Mi scrive, un uomo piacevole, eh? Piacevole, molto piacevole, molto divertente. Oh, Roberta, Roberta, perché cioè, ma provate voi, cioè, io capisco, sarà un grande pomeriggio per l'amico Gento. Capisco qualche volta i giocatori che ogni tanto gli, cioè, di farsi insultare gratis da dei cerebrolesi, ogni tanto si stufano. Andrea da Vicenza. Sì, buongiorno. Ciao. Senti, io volevo intervenire per la Lazio, il discorso della Lazio, sono tifoso della Lazio e seguo le partite ogni domenica e vedo che la squadra gioca veramente male. Secondo voi cosa aspetta lo titolo a generale l'allenatore? Ma io credo che sulla Lazio ci siano due problemi in questa stagione. Il primo è un problema che sarebbe identico in caso contrario, cioè c'è l'altra squadra di Roma che sta facendo molto bene, molto meglio, adesso un po' meno bene rispetto a qualche settimana fa, e sappiamo che a Roma in maniera particolare questo tipo di dinamica è una dinamica che in qualche modo è condizionante. La seconda è legata a Petkovic, perché è evidente che qui proprio oggi è il giorno di Eriksson, mi viene l'esempio della stagione 2000-2001, quando Eriksson annunciò dopo 15 giornate, Lazio era campione d'Italia, Eriksson annunciò dopo 13-14 giornate che avrebbe firmato dall'estate dopo con la nazionale inglese, e la squadra si inabissò, scese a una distanza dalla Roma enorme, prese Zoff, buon allenatore ma essenzialmente un traghettatore, e arrivò ancora in corsa per lo scudetto a 90 minuti dalla fine del campionato, quando poi la Roma vinse contro il Parma. La Lazio arrivò terza, però non lo so, però che sia giusto o no, che sia comprensibile o no, però sappiamo che nei piccoli dettagli che fanno una grande squadra, il fatto che ci sia una fiducia e un futuro certo per l'allenatore aiuta. È qualcosa di abbastanza simile a quello che succede al Milan. Al Milan ad Allegri è stata data quest'anno una fiducia a tempo, è stato fatto alla fine un compromesso, quello di non mandarlo via ma non di rinnovargli il contratto, e probabilmente questo in qualche modo incide sulla psiche dei giocatori. Ripeto, non è giusto, perché è esautorato, non ha potere nei confronti dei giocatori, perché i giocatori sanno benissimo che è un allenatore che è stato sfiduciato dalla società, e in tutto il mondo è così. È successo con Mourinho l'anno scorso, al Madrid, certo, uguale. No? Cioè, si sapeva che Mourinho andava via e la squadra. Insomma. Io non penso che ci sia cattiveria o volontà da parte dei giocatori, è che il calcio a questi livelli è uno sport di eccellenza. Per cui se in una scala da 1 a 10 il tuo avversario è da 10 e tu dai 9, perdi. E quindi se c'è anche questo tipo di componente, finisce probabilmente per indebolire la squadra. Com'è la tua vita con Ancelotti? Ottima, sì, per ora insomma un inizio complicato. Ancelotti ha gestito al meglio, perché quando le cose andavano male lui continuava a ripetere che le cose andavano male. Per esempio il Tata Martino l'altro giorno perde e va in conferenza stampa e dice: ho visto un gran Barça, che insomma l'ha visto solo lui, e Ancelotti sconcertava, perché il diceva, andava in radio e diceva il Madrid gioca male, eh sì, malissimo. A quel punto grande onestà, lui però insomma non so quanto l'abbia detto pubblicamente, non mi sembra entusiasta della stampa spagnola, no? Ma non lo so, ma si sta abituando, è un uomo di mondo, cioè entusiasta è difficile essere entusiasta di qualsiasi stampa mondiale, secondo me, in generale, per un allenatore. Lì voglio dire è una stampa un po' particolare, da una parte appoggia molto, dall'altra poi a Barcellona tirano fango, insomma è una stampa un po' strana, però lui fa la sua vita, non so nemmeno quanto gli interessi, che non sia entusiasta magari è vero, però non so nemmeno quanto gli interessi, certo. E adesso poi le cose funzionano, vanno bene, per cui... Ma sta cambiando qualcosa? Sì. Cioè il Madrid sta diventando la squadra più forte del campionato? Sì, secondo me sì, bisogna vedere cosa succede con l'Atletico, se resiste, perché al momento è una squadra molto forte. Tutti dicono che non resisterà, bisogna vedere, perché c'ha questo mantra che ripete, no? Partito a partito, una partita alla volta, che dice Simeone, però intanto sono arrivati a 15, bene, esatto. Così che deve fare. E il Barcellona ha un sacco di problemi, però resta una grande squadra, e il Madrid è la squadra del momento, cioè vuol dire, adesso non c'è neanche Ronaldo, hanno trovato però questo grande Bale. Godimento per la sconfitta del Barcellona domenica, mano di una squadra che noi tutti ammiriamo per varie ragioni, che è un simbolo. Oggi ho scritto sull'Atletico, domani su ET, e è interessante, anche lì è un ottimo lavoro. Sì, Athletic Bilbao è un grande lavoro, perché voglio dire sono un sacco di giovani, gente sconosciuta, che insomma hanno queste difficoltà sul mercato enormi, autoimposte, perché prendono solo Baschi o Navarri, insomma, e insomma assolutamente da... Ed è una città pazzesca, tra l'altro. Esatto. Ma hai visto Llorente? Diciamolo. Esatto, e sono senza Llorente. No, ma hai visto Llorente che tutti bollavano bidone assoluto? Ricci ha portato le prove, Ricci ha portato A me è sempre, perché tutti immaginavano Llorente come il Toni Cascarino Navarro della, non è così, è uno Llorente è uno che sa giocare a calcio, oltre al colpo di testa c'è molto molto di più, poi è un ragazzo intelligente, aveva voglia di venire, aveva voglia di misurarsi, ha voglia di sfondare e ha voglia di andare al mondiale. Ma poi qui c'era anche secondo me il precedente di Bentner e di Anelka che poteva ma certo, ma infatti Bentner un non giocatore, Anelka un ex giocatore no, ma sicuramente è arrivato un giocatore, però insomma, sai, un giocatore. Altra operazione a parametro zero, qualcuno aveva dopo le prime difficoltà. Io sono rimasto sorpreso onestamente a Copenaghen nella prima uscita quando ho visto Conte che l'ha fatto scaldare in maniera anche diciamo un po' provocatoria, un po' alla Capello con il nostro amico Cassano o con Ronaldo nell'anno grande. Ecco, 2006-2007 quando doveva Conte con Del Piero, c'è una lunga letteratura, no? Però ecco, non farlo entrare in quella partita mi sembrava veramente una frattura e mai avrei pensato quel giorno, quella sera a Copenaghen, metà settembre, che però io ho parlato con Llorente, l'intervista che gli ho fatto, sì. Lui mi ha parlato molto bene adesso di Conte, sì. non in generale non per piaggeria o perché è il suo allenatore, cioè lui ha capito che Conte aveva capito che si è affidato all'allenatore, ma questo il messaggio che lui mi ha passato era che lui si è affidato, cioè, a un certo punto non ci ha capito più niente Llorente, pensava proprio dicendo qui dove sono finito, ci si allena troppo, non è? Era in difficoltà, voleva mollare e invece ha detto vabbè, si è messo nelle mani di Conte. Certe volte parlando con i giocatori capisci esattamente l'importanza dell'allenatore. Esatto, io mi ricorderò sempre nell'anno del triplete dell'Inter, l'autobiografia con Eto'o, che era uno che aveva vinto tutto, che aveva avuto grandi allenatori e che faceva il terzino con Mourinho, sì, o comunque esatto. Faceva l'esterno, quindi poteva anche avere dei buoni motivi per dire sai che c'è, caro José, era impazzito, ma anche in privato, cioè anche quando ci parlavi al di là delle dichiarazioni ufficiali, era uno che si sarebbe buttato nel fuoco per Mourinho. Allora lì capisci. Sì, però Pier, io ti ricordo che Eto'o quando giocava nel Barcellona, io ricordo perfettamente un'intervista dopo una gara vinta con il Milan, ed Eto'o disse, dopo aver giocato terzino nel Barcellona, disse quando posso suonare la tromba, suono la tromba. Ti ricordi quando devo suonare dopo lo 0-0 a Barcellona, quando ritorno. Devo suonare tamburo, suono tamburo. Sì. Disse questa però cosa. Però quella era una dichiarazione ufficiale. Dico che poi quando parli con i giocatori capisci che delle volte, e torniamo al discorso di prima di Petkovic, no? c'è un feeling, c'è un'energia, c'è una chimica nello sport di squadra che si riesce a stabilire in certi casi, il rapporto fra allenatore, giocatori, spogliatoio, che quando c'è rende tutto magico. E sicuramente Llorente in questo momento sente per Conte una stima infinita. Allora c'è un una notizia che è questa: niente prova TV per Spalletti, non si legge il labiale con il quale avrebbe insultato a sfondo razziale Balotelli. Balotelli scrive su Twitter: ha ha ha, per fortuna c'è giustizia in questo paese. Strade, poi Gianluca da Milano, Enrico Provincia da Como, siete tutti convocati, anche quelli che scrivono gli sms 800 24 00 24. Tutti convocati. Allora, gli ascoltatori sono Gianluca da Milano, Enrico da provincia di Como e Boris Sollazzo. No, Boris Sollazzo è un nostro amico. Buongiorno. Buongiorno a lei. Stia lì, perché ho delle questioni da dirimere con gli ascoltatori. Boris, stai lì, per favore, che poi parliamo di Napoli, di Roma, di Lazio, di quello che vuoi. Gianluca, Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti. Io chiamavo perché ho visto una notizia di pochi minuti fa, perché il giudice sportivo ha sanzionato la Juventus per 5.000 euro per i cori che hanno fatto i bambini. Ecco, io volevo sapere il giudice, non so, probabilmente ha un occhio di riguardo nei confronti della Juve, perché c'è sempre una multa a favore della Juventus. Vorrei sapere quando inizieranno a multare quelli che insultano i morti dell'Aisel, che insultano Pezzotto, che insultano tante altre cose, oppure quelli che sfasciano lo stadio da 3 anni a questa parte. Perché non chiudono mai la curva del Napoli? No, lasciamo stare la curva del Napoli, però il resto della considerazione può meritare una riflessione. È chiaro che questa, finché sono stati continuiamo molto a vedere queste questioni che sono enormi con gli occhiali del tifo, sbagliamo. Perché per me i cori su Superga sono esattamente identici ai cori sull'Aisel, ai cori su Paparelli, ai cori su Pessotto, ai cori su qualsiasi tragedia possibile, accaduta, potenziale. Li sentiamo da 30 anni. Poi adesso è arrivata la moda, per cui vengono molto rese molto mediatici. Però è qualcosa di incredibile. Non riesco ad avere un'opinione, nel senso che ti dico la verità, è chiaro che Allora, l'immagine di quei 12.000 bambini l'altro giorno era bellissima, era veramente bellissima. E poi, certo, è un'immagine dovuta al fatto che quella curva era che quelle due curve erano state squalificate, quindi diciamo che era una sconfitta che la Juve, devo dire, con un'iniziativa secondo me lodevole, ha provato a trasformare in vittoria. Poi sicuramente quando abbiamo sentito i bambini emulare i grandi e dire merda, ecco, insomma, non ci ha fatto piacere. Però io onestamente, adesso faccio un discorso generazionale, da quasi quarantenne, andare da quei bambini a dirgli vi siete comportati male, pensando che cosa la mia generazione o gli adulti fanno, che è successo anche l'altro giorno, mi sembra quasi eccessivo. No, però per me non è questa la posizione. Quello che fai tu, se uno sbaglia, se i grandi sbagliano, certo, non certo. È che poi devono sbagliare anche i ragazzini, glielo puoi dire oggi, no? Capello ha detto che bisognava mandare un video messaggio ai bambini, e io la vedo diversamente. È un peccato, non è grave. Prima cosa bisogna tirar fuori il discorso, perché io ne ho parlato su Twitter e mi dicono perché solo la Juve. No, è successo perché la Juve ha avuto una grande idea, ci ha provato ed era la curva della Juve, ma sarebbe successo lo stesso in qualsiasi altra curva. Certamente. Togliamo questa cosa, vi prego, sennò non risolveremo mai, capito? Non risolveremo mai, perché detto ci sarà sempre questo, quello che dice perché gli darò tre giornate, a me me la date due. Non è questo. No, ma vogliamo risolvere noi. Vogliamo andare allo stadio felici, sereni, cercando di non rischiare la vita. Quando ci siamo andati allo stadio in questa perché condizione? Non cominciamo, però c'hai ragione te, però cominciamo. Andavo in curva quando è morto Paparelli, a Roma. Com'era la curva? È pericoloso. E allora? Sì, lo so, però dico, allora, però non è che deve essere pericoloso fino al 2030. Cerchiamo di migliorare la situazione. Da che parte si comincia? Ecco, questa, insomma, magari cioè, questa storia dei ragazzini è indicativa. Io la trovo molto indicativa. Sì. Cioè, c'è una è la cultura sportiva, è questa. Si comincia, secondo me, come si comporta? Dando al tifoso la dignità e il diritto che ha un consumatore, che è una parola bruttissima. No. Il tifoso è uno che spende i soldi per andare a vedere una partita, ha diritto alla sicurezza, cioè ha diritto a non rischiare all'interno di uno stadio, ha diritto a uno stadio comodo, ha diritto a tutta una serie di servizi, ha diritto, se sta in un settore ospiti, a non dover passare 3 ore e mezza e magari perdere il treno perché non può uscire dallo stadio. Questo, nel momento nel quale i tifosi di tutte le squadre capiranno che questo qui è un diritto di tutti, per il quale fra l'altro pagano il biglietto, faremo un passo avanti. Benissimo. Al di là del fatto di dire mai dato 3 giornate a quello gliene ha date 2, i tifosi per bene mai. Sono tutti perché nella stessa squadra. Già ti dico che questo diritto non lo vedremo mai. Ma perché di no? Perché in questo paese non avremo. Allora chiudiamo fermi. Tutti i convocati, arrivederci. Noi, la linea Baggio e Telesforo. Noi non lo vedremo mai. Noi non lo vedremo mai perché la legge sugli stadi è stata bloccata, perché di stadi nuovi in Italia non ne verranno costruiti. Perché comunque per molti e molti anni, ci piace oppure no, si andrà avanti in questa maniera. Gli stadi si svuotano perché ci sono le televisioni e vogliono. Non perché ci sono le televisioni. Insomma, anche per quello, no, non la gente per quello, qua va, non sono d'accordo. Perché lo stadio deve essere vuoto? Posso dire Boris Sollazzo? Ma siamo sicuri che non siano stati quel migliaio di accompagnatori adulti a suggerire, magari per scherzo, la parola ai bambini? Perché voi immaginate se vi capita di portare i vostri figli o i vostri nipoti all'asilo, quando sentono una parolaccia cominciano a ridere e poi la ripetono. Sì, sì. Io mi giocherei qualcosa più di 100 euro che sia andata così, cioè che qualche buon tempone di quelli che li accompagnavano, perché c'era più o meno un accompagnatore adulto ogni 10 bambini, magari per scherzo l'avrà detto una volta, e da lì insomma l'effetto tsunami è facile con dei bambini. Ci sta. Basta andare a vedere qualche partita di ragazzini, non è che c'è sempre un clima altro che. Comunque guardate che mi fate fare, addirittura difendere degli juventini. Cioè, no, però no, Boris, è ancora più indicativo questo, perché adesso al di là degli scherzi. No, qui non si tratta di juventini. Questa roba mi rendo conto che è banalissima e diventa anche retorica, ma finché non facciamo pace con questo concetto, ti continuano ad arrivare i messaggi, anche per esempio ieri sera a Tiki Taka, arrivano i messaggi perché magari la Satta dice che bisogna dire ai bambini di non dire le parolacce, e ci sta lo juventino che ti dice, ma perché ve la prendete con... Ma non è la Satta che dice una cosa di un bambino che poteva essere il Verona, del Napoli o del Piacenza. Ma tanto capisco sempre quello che vogliono, dai. No, è inutile. Ma che è sto cinismo oggi, capiscono sempre. Secondo me che bisogna resettare. Bisogna resettare questa cosa qua e capire che qui siamo tutti dalla stessa parte, quelli che realmente vorremmo riuscire ad andare allo stadio in maniera civile. Va bene, ma i tifosi tanto capiscono sempre quello che vogliono, perché è inutile star lì. Noi possiamo discutere finché vogliamo, guardandolo con un po' di razionalità. Il tifoso non è razionale per definizione. Se a me l'altro giorno uno ha scritto, diceva, cosa vorresti? Lo stadio come la Scala? No, non vorrei assolutamente, lo stadio, assolutamente, no, assolutamente no. No, se non vado alla Scala, infatti sì. Posso dire, a me onestamente questi 5.000 euro mi fanno abbastanza ridere, perché insomma, anche perché se, voglio dire, se li vogliamo trattare come adulti e punire per questi 5.000 euro è allora poco. Dovevamo punire tutte le volte, esatto, che quella stessa parola è stata detta in tutti gli stadi del mondo, certo. Vabbè, Boris, il Napoli come sta? Il Napoli sta male, ieri per fortuna si è preso 4 pillole, di cui 2 date dal suo medico preferito, che è Higuain, però era una squadra ancora in grande convalescenza, che ha avuto dei problemi contro una squadra in questo momento in grande difficoltà come la Lazio. Certo è che, avendo giocato in 13 contro 9, comunque è stata un'impresa vincere, perché regalare Armero e Britos alla Lazio, Britos è stato uno dei migliori attaccanti della Lazio, insomma al centro faceva più movimento di Perea, Armero è riuscito a far velo su Candreva e addirittura poi a indicare a Keita dove segnare, insomma devo dire è stata un'impresa giocando in 13 contro 9 riuscire a vincere. Detto questo, è un Napoli che secondo me ieri ha fatto esattamente tutto quello che Benitez non gli aveva detto di fare, cioè lanci lunghi, palla quasi mai a terra, e però ha vinto. La cosa curiosa di questo Napoli, la contraddizione di questo Napoli, mi sembra che quando gioca come vuole Benitez, gioca bene, però magari non vince a volte, perché poi ha fatto 31 punti su 42 e 9 su 15 in Champions. Quando invece decide di ammutinarsi, tira fuori la grinta come ieri, perché quello di ieri è un Napoli però tutto carattere. Boris, c'è una costante che becca sempre un sacco di gol. Sì, quello è incredibile, anche poi ieri contro una squadra che davvero non era molto pericolosa. Bisogna dire che insomma sotto la curva nord non hanno avuto nemmeno la soddisfazione di vedere un gol della Lazio, perché il gol della Lazio era di Berami, cioè l'abbiamo messa dentro, sì, noi. Senti, ma sei un nostalgico mazzarriano? No, affatto. No, io sono proprio un rafaelista, quasi jihadista. No, come dire, sono talebano. Sono convinto che Benitez abbia bisogno non di mesi, e questo è un problema in un pubblico impaziente come quello napoletano, ma di anni, come si sono dati ai Ferguson, a chi come Ferguson, hai detto uno che è stato lì poco, insomma. Vabbè, però per 5 anni non ha vinto, in quel senso lo dicevo. No, ma questo è sicuro, sì. Questo è sicuro. Ma sì, infatti io continuo a pensare che Benitez sia l'allenatore perfetto in quel contesto, poiché sia un allenatore particolare, non c'è dubbio. Boris, ti ringrazio, ti abbraccio, ti ciao. Saluto, ciao, e ti do Boris. Appuntamento a presto. Enrico, a provincia di Como, invece do appuntamento dopo il giornale, sì, radio. Anche abbiamo 187 messaggi da leggere. Non li leggiamo. No, ma sono interessantissimi. No, mi interessa, già te lo dico. Filippo, tu stai un po' fustigato, te lo dico. Ieri Ricci, uscita secondaria oggi. Filippo, Maria Ricci. Ah, mezzanotte, usciamo a mezzanotte. Adesso però c'è il... Chiudi. C'è il GR. GR. Tutti convocati. Come Enrico da Como è stato lì ad aspettarci finora, adesso non c'è più. 800 24 00 24, oggi parterre del Wacqui in studio, oltre a mio amico Pardo, come sempre, e siamo noi una coppia di fatto, no? Non facciamo outing, ma così? No, non facciamo outing. Mi sembra ci siano dei presupposti. C'è Filippo Maria Ricci, che è l'amante Ricci dalla Spagna. Cos'è il momento? Marco su Twitter ci scrive: appedate sul sederino i bambini, in gabbia i grandi, così si risolve il problema. Nessuna tolleranza. Ieri anche Renzi ha detto, insomma. Voglio tolleranza. Parlare di Cristiano Ronaldo, però io. Sì. Posso? Allora, Cristiano Ronaldo, aspettiamo una telefonata da Blatter. El presidente de FIFA cometió el ridículo mundial de intentar ridiculizar a un jugador y por lo tanto ridiculiza al fútbol. Ha intentado llamarte, no sé si le has cogido el teléfono. ¿Le has tomado el teléfono ya y vas a ir a la gala del Balón de Oro? No tengo teléfono. Mi secretaria, yo no tengo. No uso teléfono. Nadie te lo ha pasado. No. La información, ese tipo de información no me llega. Non gli è arrivata questo tipo di informazione. No, eh? Bello accento portoghese sul grande, spagnolo. Sì. E l'altro era Paco García Caridad, direttore di Radio Marca, che lo intervistava. Quindi, non l'ha chiamato Blatter, quindi, perché non ha il telefono. No, non c'è. Forse segretario. Anche Blatter non c'ha il telefono. No. Platini ha il telefono e ha detto anche che... Che deve vincere Ribery. Ma va! A sorpresa. Messi e Ronaldo grandi, sì, ma quest'anno Franky ha vinto più voi di voi siete tutti. Fortunati, perché qui non c'è un candidato italiano, ma io non ne posso non più. C'è? Dico, non c'è un candidato italiano, quindi qua se ne parla relativamente, ma da noi è veramente un tormentone insopportabile questo del Ballon d'Oro. È un derby Real Barça tutti sì, i giorni. Sì, ma insomma è abbastanza ridicolo, perché è come se il secondo fosse un giocatore mediocre. Cioè bisogna anche dare un po' il giusto rilievo ai premi, voglio dire, cioè, anche Ronaldo se la prende sempre tanto e a volte ha avuto anche ragione, ma nemmeno troppo. Secondo me se la dovevano prendere molto di più Xavi e Iniesta nel 2010 o Snyder piuttosto nel 2010, perché quello è il vero pallone dello scandalo. Però se ne parla troppo, è troppo. Beh, però sai, Cristiano Ronaldo comunque sono anni che è lì che succhia la ruota di Messi e giustamente un po' come per me con gli ascoltatori ogni tanto perde la brocca, no? Sì. Dice, ma perché non, perché a me mai? No, a parte che lui l'ha vinto quando era ancora, che, quando Filippo, era ancora. Le parole di Ancelotti pronunciate qui da noi in Spagna sono state un trionfo. Ma noi andiamo davvero, Piantanide è pronto con la valigia, va a Reggiolo, a fare, a organizzare sit-in. Radio 24 dominò. Senti, facciamo Enrico da Varese. Non lo danno a Cristiano Ronaldo. Premesso che a me il pallone non piace tantissimo come premio. In generale, però, io e Pardo andiamo a fare un sit-in in piazza del Duomo a Reggiolo. Vabbè, ma sono lì pure io. Ecco, se potessimo unirci anche qualcosa di alimentare, visto che ho avuto il piacere. Se ci consigli anche un ristorante. Non mancherebbe. Capito? Sì. Cioè, il contrario dello sciopero della fame. No, praticamente il pranzo. Con Carlo quello è escluso, ovviamente. Ormai è magro. Ma non è quello, in generale, ma giustamente, non è che... E no, questa storia del pallone d'oro basta, però ce l'avremo ancora per un po'. Quando è l'8, il 13 gennaio? Quando 13. E no, perché il Ronaldo aveva detto che non è escluso che non vada a Zurigo. Ultimamente complicatissimo. Non è escluso, la doppia negazione. Sì, esatto. Quindi voleva, probabilmente andrà e poi se non glielo spacca tutto. Esatto, sì, okay. Enrico, provincia di Varese. Eccoci, buongiorno a tutti. Ciao. Oggi pubblico nutrito, addirittura tre persone che mi ascoltano, sono emozionato. Beh, tre qui, tre milioni. Molte di più. Saremo 3,5 milioni in questo momento. Ah, io pensavo fosse una cosa tra pochi intimi, mi sono sbagliato allora. No, noi abbiamo lo spirito dei pochi intimi, ma in realtà... Prego Enrico, vai tranquillo. No, volevo ricollegarmi al discorso di prima sul tifo in Italia. Sì. Io vorrei capire perché non possiamo per una volta prendere esempio dalle disgrazie altrui. Perché a fine degli anni Ottanta l'Inghilterra, prima di risalire e diventare all'avanguardia a questo punto di vista, ha fatto Hillsborough e la Isel. Perché noi dobbiamo per forza arrivare a quel livello per darci una svegliata e applicare delle leggi serie e restrittive che cambino le cose in Italia dal punto di vista del tifo e dell'educazione sportiva? Giusto, anche se mi viene da dire, per onestà, che Ricci lo potrà confermare, che quella che è la conflittualità, la voglia di menare le mani che ci può essere, proprio la conflittualità civile che c'è in un paese, magari la puoi spostare, ma difficilmente riesci a reprimerla. Cioè in Inghilterra gli stadi sono diventati molto sicuri, poi venerdì sera c'è gente che fa botte, oppure magari a 500 metri dallo stadio si danno appuntamento e si sfondano fra di loro. Questo lo dico perché insomma l'idea di un mondo dove ci vogliamo tutti bene, dove nessuno vuole più essere violento, questa è un po' un'utopia. No, però allontanarlo dagli stadi non sarebbe male, visto che è uno spettacolo. Certo. Io questo, a questo proposito il Real Madrid sta seriamente pensando di cacciare via gli ultras, che non sono moltissimi. No, sono pochi, confinati lì, si sono picchiati. Quanti sono circa? 500, anche 500 meno, 300 sono, sì. Hanno 500 posti. Proprio sono massi sotto la porta, no? Vicino sì, alla porta. Sì. Si sono picchiati tra di loro fuori dallo stadio per una questione di potere, così, e il Real Madrid ha colto la palla al balzo e pare già da gennaio li caccia via. Il Barcellona già li ha cacciati via. Invece poi qua ti diranno però, ma allora dopo è la scala. Vedi? Cioè in Italia dicono... No, però è la scala. Attenzione, al Bernabeu e al Camp Nou l'atmosfera ce n'è pochina. L'altro giorno per la partita è vero. Del Real Madrid, che era una partita tranquilla col Valladolid, c'erano dei momenti di silenzio assoluto. È una scelta, voglio dire, se ne può parlare. È uno spettacolo, lo puoi vivere in molte maniere. Però comunque io preferisco sempre lo stadio pieno. Poi dopo sì, che non ci sia tanta atmosfera. Ma lo stadio pieno ce l'hai comunque. La generalizzazione anti-ultra non mi piace. Non mi piace perché secondo me ci sono anche dei valori, cioè dell'aggregazione. Quindi, però è evidente che poi insomma se le negative superano le positive in maniera pesantissima, che è insopportabile la connivenza che esiste e sappiamo che esiste tra ultra e club. E ormai fare l'ultra in Italia è diventata una professione a scopo di lucro, e dunque ed è per questo che il Real Madrid è intervenuto, rapporto perverso, no? Esatto, è questo, cioè loro controllano, cioè ci sono in ballo un sacco di soldi e c'è la politica. 5.000 euro di multa per il merda scaramantico dei bambini, allora che cozzalone diamo l'ergastolo. Questo è un ascoltatore, grande messaggio, questa ci sta. E poi vorrei vedere una partita di calcio con mio figlio, ho tenuto più in fretta il visto per la Russia, è più semplice. semplice, ci scrive Roberto da Belluno, perché pure, poi, perché poi sì. Diciamo anche, scusa, una parentesi 20 secondi, credo che ci sia ormai il fallimento totale della tessera del tifoso, che credo sia una cosa che è proprio ridicolo, non ha funzionato, e bisogna riconoscerlo onestamente. Io credo sia una cosa illegale, ma moralmente è una limitazione dello stato di diritto enorme. Però quando dicevo che non vogliono che la gente vada allo stadio, insomma, questo sì. Mi sembrava un buon, no, buon viatico, un buon, la gente, esatto, a un certo punto c'è stata la scelta di diminuiamo il numero di feriti e di incidenti, e per fare questa cosa è come se chiudessero l'autostrada, un esempio banale che faccio sempre, certo, sì. Chiudi l'autostrada e poi non ci sono più gli incidenti stradali sopra, questa è stata un po' la sensazione. Il vero scatto culturale di uno stadio, di una grande partita a rischio che viene vissuta in maniera civile, questo purtroppo ancora non lo vediamo. No. Siamo Vincenzo? Sì, eccolo qua. Eccolo là, dica. Volevo ringraziarla per... Io sono uno juventino. Ringraziarla per la difesa che ho fatto di Balotelli come uomo e non come giocatore. E la cosa mi piace molto. Poi volevo fare una riflessione. No, mi scusi, in che senso? Perché lei vede l'uomo e non solo il giocatore. No, io guardo principalmente il giocatore, dell'uomo mi importa pochino. Sì, della verità è il contrario, lo difende l'uomo molto ovviamente, ma oltre il giocatore perché ha queste reazioni. No, ma io c'è un equivoco, perdoni Vincenzo. Balotelli a me piace immensamente come giocatore, quando non dà di matto è un giocatore che è pieno di difetti, per difetti comportamentali, ma in campo dico soltanto che quello che fa fuori dal campo non mi interessa, però mi piace la difesa che ne fa. Vabbè, grazie. E poi volevo fare una riflessione. Io sono juventino con l'abbonamento allo stadio di Torino. Voi sapete che allo stadio di Torino ci sono 40 rotti mila posti, c'erano 12.000 bambini. Siete sicuri che 28.000 non erano a urlare quella parola? E perché ve la prendete con i bambini? Io lo trovo sbagliato. Primo, perché a Torino è sbagliato, ma è diventata un'abitudine, lo fanno sempre per intimorire il portiere. Secondo me dovreste andare avanti su ricerche non della parola per enfatizzare una trasmissione o un fatto, perché quello che ha detto ieri sera Tiki-Taka, la Satta e Mughini non c'entrava nulla, secondo me. Io sono un padre, ho dei figli, ho dei nipotini, e con l'educazione lo stadio ti eccita, ti... Certo. Ti porta magari a dire anche una parola sbagliata. Però voi siete sulla strada giusta, a volte sbandate. Voi potreste aiutare gli ultra, chi va allo stadio per fare il caos, che non serve a niente. Andare a Torino oggi è bello, perché sei a casa tua e vai e non hai timore di niente. Sì, assolutamente. Questo è un punto fondamentale. Io sono di Milano, vado a San Siro, non vado con la stessa sicurezza con cui vado a Torino. Io sono juventino, ho avuto l'abbonamento al Milan per andare a vedere gli olandesi per 3-4 anni. A me piace il calcio. E non era la stessa cosa. Oggi il calcio. Chiarissimo, e devo dire condivisibile quel punto, soprattutto proprio sul diritto di una persona di andare allo stadio, sentirsi a casa, cioè la qualità di un servizio, anche perché il biglietto, ribadiamo, perché si paga. È come andare a teatro, io devo vedere lo spettacolo, vedere uno 0-0, 1-1 brutto, è meglio vedere la Fiorentina 4-2, è stata una partita. No, ma a prescindere, sì, no, ma, no, ma questo, il concetto è che uno spende i soldi, se uno spende i soldi per un surgelato, non può rischiare la vita per un surgelato, deve avere un prodotto che funziona. Sì, il calcio è surgelato, però. No, il calcio non è surgelato, però nel momento nel quale spendi 40, 60, 100 euro per andare a vedere una partita, devi avere il diritto di poter parcheggiare, devi avere il diritto alla tua libertà individuale, non ti devi sentire certamente ostaggio dell'ordine questo pubblico sempre e comunque. In valore assoluto, però non dimentichiamo che anche un qualcosa in cui la componente emotiva è molto forte. Certo, quindi certo. Non sia per quelli che vanno in campo che per quelli che vanno a vederlo, ma questo accade in Italia come in Spagna, no? Sì, no, ma senz'altro, non è che poi all'estero non volano gli insulti, non è questo, però sappiamo bene, ecco, c'è una fruizione diversa. L'altro giorno, ho visto ieri, a proposito di questo, si sono menati a Copenaghen, al derby di Copenaghen, vedi, succede ovunque, no? È stato assolutamente. Però dico, bisogna è l'idea di come fruire del prodotto calcio, cioè di come andare allo stadio, di come vederlo, di come insomma, e qua in Italia secondo me non è più tanto divertente, mettiamola così, insomma, certo. Io ne faccio una questione di spettacolo. Sì, allora adesso per chiudere la domanda che non ti saresti mai aspettato: chi vince il pallone d'oro? Cristiano Ronaldo. Eu acho que Cristiano Ronaldo pode ganhar o Pallone d'Or. Sì, bravo, per l'accento portoghese è perfetto. Di Porto però, eh? Ah, certo. Lui soy, di Madeira, quello di Cristiano è difficile, di Madeira lì è tosto, lì è difficile. Eu soy portista. Sì, secondo me Cristiano Ronaldo è giusto, non ha vinto niente, però è stato il miglior giocatore di quest'anno. Beh, secondo me il parametro è quello, visto che tanto Pallone d'Oro è un premio individuale in un gioco per eccellenza collettivo, diamo la più forte che c'è, punto e basta. Beh, quest'anno sì, secondo me sì, cioè ormai è diventato così, prima era, poteva essere diverso, però adesso ultimamente, nel momento in cui lo vince Messi nel 2010... Un'ultima cosa, poi chiudiamo, per chi fa il tifo in questa Champions League? Io? Sì. Per il Real Madrid. Per il Real Madrid... Lo vuoi che io dica per Ibra? Sì, voglio che dico, tu dica per Ibra, così siamo in due. Sì, a me piacerebbe che vincesse italiane, un italiano sarebbe fantastico, se no Paris Saint-Germain. Mamma mia, che è nichilismo del genere. Io sarei contento per Ibra, sì, sarei contento per Ibra. Ibrahimovic tutta la vita. Va bene. Quando torni? Presto? Sì, il prossimo anno. Ti sei divertito? Molto. Molto. La radio, vuoi la dire radio, qualcosa agli ascoltatori? Che la radio... Come hai trovato Genta oggi, particolarmente, diciamo... Tranquillo. Tranquillo, sereno. Io sono sempre molto tranquillo. Solidale. La radio è un trio. Un trionfo, magica. Mica come la TV. No. E poi anche ragazzi. Di giorno. Ciao, Telesforo. Ciao, Filippo Maria Ricci, no. Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, in regia. Sentiamo domani alle 2, tutti convocati.